30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Un militante ecologista tibetano è stato condannato a 5 anni di carcere per incitamento alla rivolta. Rinchent Samdrup, 44 anni, è stato riconosciuto colpevole da un tribunale della regione di Chamdo che aveva già condannato due fratelli dell'uomo. L'uomo e un altro fratello erano a capo di un'associazione di tutela della natura che, secondo Human Rights Watch, avrebbe denunciato amministratori locali cinesi per atteggiamenti anti-ambientalisti. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. 20 anni di grandi trasformazioni, città che esplodono, catturano la nostra attenzione diventando moderne icone del successo. Pechino, Shanghai, nuovi ricchi, super ricchi, giochi olimpici ed Expo delle meraviglie. La Cina ha bruciato le tappe, eppure c'è un fronte in cui ci appare quasi immobile, quello dei diritti individuali, soprattutto se questi vengono rivendicati nella provincia tibetana. Il caso che avete sentito, quello di Rinchen Samdrup, condannato quindi a 5 anni di carcere dopo aver denunciato atti di bracconaggio da parte di alcuni ufficiali governativi. Notizie come queste ci fanno pensare che la Cina, nonostante molti cambiamenti, sia ancora soprattutto un paese monolitico, un paese autoritario. Questa sera ne parliamo con Renzo Cavalieri, che è professore di diritto dell'Asia orientale all'Università di Venezia Ca' Foscari, avvocato impegnato ormai da oltre un ventennio nell'insegnamento, nella pratica professionale del diritto cinese, in particolare di quello civile. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, qual è la prima reazione che le suscita una notizia come quella che abbiamo letto in apertura? Pensieri me ne vengono parecchi. Intanto la notizia io non l'ho esaminata più di tanto con attenzione. La prima cosa che mi viene da dire è che certamente in Tibet c'è un problema, ci sono due problemi grossi. Uno è quello del rapporto fra gli Han, fra i cinesi e la minoranza etnica tibetana, e l'altro è il problema ambientale, cioè due visioni completamente diverse, se non antagoniste, che cosa voglia dire progresso. I cinesi sono molto materialisti da questo punto di vista. Aggiungo che i comportamti dei funzionari Han in Tibet sono spesso ai limiti della legalità, e quindi non è affatto escluso che questa denuncia fosse motivata da parte di Samdrup e che la reazione della condanna, che peraltro è stata una condanna per il reato di separatismo, quindi collegata a un tema politico, non a un tema, diciamo, di diritto comune, che questa condanna sia in qualche modo una ripercussione dell'attivismo del nostro. Ecco, le ho fatto naturalmente questa domanda e l'ho invitata a essere questa sera con noi anche perché appunto lei ha appena pubblicato un saggio dal titolo molto promettente, che è Germogli di società civile in Cina. Pubblicare un titolo, come dire, promettere in qualche modo un germogliare di iniziativa nella Cina di oggi cattura naturalmente il nostro interesse. Allora, quali sono innanzitutto i germogli a cui si riferisce? Ma il senso del lavoro era proprio quello di cercare di dare un'idea un po' diversa, un pochino più prospettica della Cina in termini temporali, ma anche in termini di visione sociale, cioè evitare quell'appiattimento su temi che sono temi importanti, incluso quello tibetano, quello dei dissidenti, quello dei problemi ambientali, sociali, militari, politici del paese, cercare di collocare questi temi, che sono temi patologici, in un contesto molto più importante, molto più fisiologico, oserei dire, del quale purtroppo i nostri media, una critica che rivolgo a voi, insomma, parlano poco. Ecco, riforma economica quindi centrale anche in queste trasformazioni. Effettivamente, come dire, la critica alla categoria giornalisti per la comprensione io la ricevo senza difficoltà, anche perché come dire, è evidente a chi fa invece il nostro mestiere quanto sia complesso capire la Cina e quanto sia comodo in qualche modo attaccarsi a delle piccole notizie che magari arrivano attraverso le agenzie internazionali. Ecco, lei stava dicendo economia e trasformazione. Quali sono dunque alcuni di questi germogli? Partiamo dalla base. La base è la riforma economica, no? Che è cominciata all'inizio degli anni Ottanta con Deng Xiaoping, che ha portato alle trasformazioni visibili del sistema socio-economico cinese. su questa base, all'inizio diciamo liberistica, poi un pochino negli ultimi anni un pochino più socialdemocratica, cioè un pochino più attenta anche alle esigenze delle categorie deboli, si sono innestati una serie di fenomeni di germogliatura, diciamo, pluralismo e partecipazione politica di cui si sa poco, su direi quattro grandi settori. Il primo è il settore politico, istituzionale e giuridico. Il secondo è quello del lavoro, poi c'è quello dei media, che è enormemente importante, e poi c'è quello della società, diciamo socioculturale, una trasformazione nei modi delle persone di relazionarsi con gli altri, ma anche di relazionarsi col potere. Insomma, quattro grandi cantieri, si potrebbe dire. Io vorrei un po' scompaginare l'ordine, partendo dai media e da un numero che leggo all'interno del vostro saggio, un numero semplice in fondo, che ci racconta come il 99% dei cinesi abbiano un apparecchio televisivo, accedano alle informazioni principalmente attraverso la televisione. Ma allora, professor Cavalieri, la televisione in questo modo non è piuttosto uno strumento di propaganda, o in che modo riesce anche a trasmettere un cambiamento delle voci comunque non necessariamente legate a quello che è l'autorità del partito? Dei media, certamente la televisione è quello più rigido in termini di trasformazione rispetto sia ai giornali, alla carta stampata, sia soprattutto al web. Ma nonostante questo, anche la televisione cinese è una televisione estremamente più varia e moderna di quanto un italiano non immagini. Penso che se chiediamo a un italiano la sua idea della televisione cinese, non immagina qualcosa tipo la televisione bulgara degli anni 50. E soprattutto una televisione controllata dal governo, immagina. Ovviamente c'è un controllo da parte del governo su tutti questi germogli. Soprattutto su questi media appunto più rigidi, il controllo c'è, è un controllo però intelligente, è un controllo che consente un livello di flessibilità adeguato a supportare una grande trasformazione economica, e questa capacità di tenere in equilibrio il controllo con la trasformazione a ritmi vertiginosi è secondo me la grande qualità della dirigenza politica cinese di questo momento. Nel caso della televisione, semmai i grandi temi che si dovrebbero porre sono i temi che ci dobbiamo porre noi, no? Sulla qualità dell'intrattenimento, sul messaggio morale che passa, sul tipo di modelli che la televisione trasmette. Ecco, la Cina è anche il paese, continente dei giovani, un paese di navigatori perché la rete li rende tale, perché la modernità, perché oltre 385 milioni di navigatori sono quelli indicati appunto per la Cina a fine 2009. Nello stesso tempo la Cina è anche il paese che almeno per noi è il paese dello scudo d'oro o della diga verde, cioè di quei software di controllo per assicurare appunto un controllo alla rete che noi invece percepiamo come spazio di libertà assoluta. Allora, professor Cavalieri, visto dall'interno, visto da uno specialista di questi meccanismi e di questi ambiti, in che posizione è la Cina oggi? Il caso che ha citato della diga verde è abbastanza emblematico. I progetti di inserimento di questo software in tutti gli hardware prodotti in Cina e importati in Cina sono stati cassati dalla reazione dei netizen, del popolo della rete, che ha ormai una presenza politica estremamente importante in Cina. Ci sono delle cose che non si possono dire nella Cina contemporanea, dei temi dei quali non si può parlare. Certamente il separatismo delle minoranze è uno di questi, lo è Taiwan, lo sono alcuni gruppi religiosi, penso alla Falun Gong, penso al rapporto con la Chiesa Cattolica e con gli altri gruppi religiosi controllati dall'estero, ma per tutto il resto, cioè per quello che riguarda il dibattito politico sulle grandi scelte, la rete è ormai un soggetto attivissimo. Devo dire che in molti momenti il dinamismo del popolo della rete cinese dà l'impressione di essere molto maggiore di quello del nostro popolo della rete. Per esempio, l'interazione con il potere legislativo nel momento in cui vengono redatte le leggi è un'interazione veramente interessante, è una forma di pressione diversa da quella democratica a cui siamo abituati attraverso la mediazione dei partiti, ma molto nuova e molto interessante. Insomma, mi sembra di capire, se c'è una cosa che non dobbiamo considerare un atteggiamento passivo, forse un altro elemento che noi da Occidente tendiamo ad associare al mondo orientale, alla Cina. Naturalmente è anche una questione di relazioni, di percezione, di punti di vista, che è il nostro in questo caso sulla Cina e sulle sue trasformazioni. 30 minuti in cronaca. Nel frattempo anche da noi molte cose sono cambiate. Le idee di democrazia e di legalità che sino a pochi anni fa costituivano, se non necessariamente la prassi, certo l'aspirazione, la cifra simbolica della nostra cultura politica, sono entrate in una crisi profonda dalla quale non è affatto chiaro come potranno uscire. Così scrive, tra l'altro, Renzo Cavalieri in questo Germogli di società civile in Cina. Insomma, racconta e scrive di come nel corso di questi anni si sia passati anche in una vera e propria fase di trasformazione e dei rapporti che da un lato e un tempo erano quelli di un senso di superiorità da parte dell'Europa nei confronti della Cina, che oggi invece rischia di spostarsi all'estremo opposto. La meraviglia di questi eventi, di questi successi, dai giochi olimpici all'Expo, ci pongono quasi in una posizione di sudditanza, di preoccupazione. Ecco, il rapporto tra questi due mondi, tra queste due mentalità, non è semplice e condiziona la nostra percezione delle cose, e una delle quali è appunto che la Cina abbia un'opinione pubblica passiva, un'opinione pubblica addirittura inesistente, che non sappia protestare rispetto all'autorità. Sì, noi siamo molto abituati, anche se abbiamo declamato la nostra voglia di lasciare l'eurocentrismo, l'occidentocentrismo dietro le nostre spalle, in realtà continuiamo a considerarci noi quelli buoni, bravi e progressivi, cioè l'apice di una specie di movimento verso il futuro di cui noi rappresentiamo l'avanguardia, e loro invece quelli totalitari, arretrati, che prima o poi arriveranno anche loro alla democrazia, ai diritti, ma adesso ne hanno ancora estremo da fare. Questo è un modello che è finito, secondo me, ed è opportuno rendersene conto, proprio perché in questo momento viviamo in Occidente una grande crisi, secondo me epocale, delle strutture politiche e sociali. Quindi io non so se questa clessidra che è stata fino ad ora di esportazione dall'Occidente di modelli politici, giuridici, culturali, sociali stia girando, e se andremo prima o poi ad importare dalla Cina qualche cosa, e non è neanche detto che se succederà questa sia una cosa positiva. Certo, il momento richiede una mente aperta, cioè richiede di non prestare troppa attenzione ai dettagli e stare invece attenti a quelle che sono le grandi dinamiche di questo fenomeno. Cioè, lei crede che siamo ancora troppo legati a degli stereotipi e magari, se ho ben capito, addirittura a quello della democrazia come valore assoluto? Perché spesso il riferimento nei confronti della Cina è: sì, la Cina ha fatto grandi passi avanti, ma è così indietro nella strada della democrazia. Se per democrazia si intende il voto, scevro da tutto il suo contenuto, sì, penso che questo sia un tema di discussione. Nel momento in cui i poteri sono così concentrati come nelle società contemporanee, media, economia, politica, è evidente che il voto in sé non rappresenta, secondo me, un fattore determinante. Se democrazia è, in termini più ampi, un insieme di valori, di meccanismi istituzionali, eccetera, certamente la Cina sta facendo grossi passi avanti, non posso dire lo stesso del nostro sistema. Diciamo che loro sono in una fase in cui il progresso ha un senso, le generazioni future cinesi presumibilmente staranno meglio delle precedenti. Non so se questo valga anche per noi. La società civile che pesa nelle decisioni, nelle dinamiche appunto dei decisori, delle autorità, in che modo è rappresentata nella Cina di oggi? Come si manifesta? Ma qui bisogna fare una grande distinzione fra città e campagna, che fa parte di quelle grandi distinzioni che sarebbe opportuno fare, ma che per diciamo per la salvezza della comunicazione ogni tanto bisogna omettere. Società civile è una società urbana e la Cina si sta urbanizzando molto rapidamente, è anche molto difficile, ci sono tante definizioni sociologiche per questa espressione. Io direi che semplicemente sono gli interessi di quelle classi medie, ma anche medio-basse o medio-alte congiunte, che vengono rappresentati in un ventaglio di situazioni sociali che vanno appunto dalla politica in senso stretto al diritto, dove per esempio, non so, faccio solo un esempio, è invalso un concetto di autonomia degli individui nella Cina contemporanea che non esisteva, di autoresponsabilità nelle scelte della propria vita, non solo nelle scelte patrimoniali, anche nelle scelte personali. Riguarda i media, riguarda il lavoro, eccetera. Questa società civile parla con il potere. Non pensiamo a un potere impermeabile chiuso nei corridoi della città proibita, perché anche questa è una visione totalmente falsa. Il potere politico cinese è perfettamente cosciente dei grandi temi che deve affrontare. Questo è sicuramente un elemento di grande interesse, perché è vero che noi abbiamo la percezione di questa separazione, appunto chi non è specialista come me di questa materia ha la sensazione di una cesura netta tra gli altri livelli del potere e poi il resto della società. Lei dice che questa è un'idea assolutamente quantomeno superata, ammesso che sia stata vera, forse lo era ai tempi dell'imperatore. All'interno della dirigenza c'è un grande dibattito, questo dibattito è perfettamente visibile nei media, è un dibattito estremamente aspro sulla nozione di partito comunista, per esempio, su che cosa voglia dire oggi essere partito comunista. È un dibattito aspro e pubblico. Rimane il fatto che ci sono dei limiti che non si possono superare convenzionalmente, e quelli che li superano lo fanno per provocare una reazione tendenzialmente. Ecco, perché nella società occidentale parlare di questi limiti ci risulta come una sorta di trappola? Insomma, se non si possono affrontare questi limiti, non saremo mai in grado di affrontare i veri nodi della società. La sensazione è che nella percezione cinese questa sorta di scacco non esista, è così? Cioè si può essere innovatori restando nei limiti in Cina? Questa è un'antica tradizione confuciana, il confucianesimo che impregna la cultura cinese è una scienza filosofica del giusto mezzo, evitare l'eccesso, è una vecchia tradizione. Che poi questo possa comportare delle rigidità che probabilmente saranno oggetto di una trasformazione nei prossimi anni, così come c'è stata una grande trasformazione negli scorsi 5, 10 o 20, certamente è vero. Non sto affatto sostenendo che il meccanismo della dirigenza e della consultazione politica siano perfetti, tutt'altro, ci sono delle situazioni estremamente difficili, estremamente gravi. Ma è un fenomeno dinamico, dice. Certamente, certamente. Ecco, in conclusione, e ricordo Germogli di Società Civile in Cina di Renzo Cavalieri, che questa sera è con noi, di Ivan Franceschini, è pubblicato da Francesco Brioschi Editori ed è quindi anche un modo per entrare nella Cina di oggi oltre gli stereotipi che naturalmente tutti noi condividiamo, coltiviamo nel tempo. Vorrei concludere con una domanda: in che modo la Cina si sta, diciamo, contaminando di Europa e di cultura occidentale, se lo fa in qualche modo? Vedi che ci siamo ricascati nello stereotipo iniziale. No, certamente è contaminata. La Cina, che dal 1842, dalla guerra dell'oppio, è un recettore di modelli esteri, quindi non c'è dubbio che ormai, tra l'altro con i fenomeni di globalizzazione, siamo su una barca unica. Sul futuro della Cina penso che nessuno possa scommettere neanche un centesimo, nel senso che ci sono talmente tali e tanti problemi in termini di stabilità, di unità, di mantenimento della crescita economica, che se posso evitare di dare un giudizio preferisco. D'accordo, e allora in cambio prendiamo, diciamo, appuntamento per un aggiornamento, per seguire in altre occasioni la trasformazione e lo sviluppo di questo grande paese. Io ringrazio Renzo Cavalieri di essere stato con noi questa sera, ringrazio Paolo Corleoni in regia, vi ricordo solamente radio24.it per sentire e risentire questa e tutte le trasmissioni di Radio 24 e vi auguro naturalmente un ottimo fine settimana.